2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda come sempre venerdì 22-23 oppure domenica tra le 13.30 e le 14. Potete contattarci attraverso Facebook, Twitter oppure alla nostra email 2024@radio24.it. In questa puntata parleremo di sanità digitale, un tema molto vasto, anche molto complesso da un certo punto di vista, ma faremo un po' il punto della situazione. Poi parleremo anche di Facebook, si è parlato molto in questi ultimi giorni per vari motivi, o comunque visto che ci sono circa 30 milioni di italiani che lo utilizzano molto spesso, se non tutti i giorni, e questo è un tema di dibattito ricorrente. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Iniziamo da una notizia che riguarda il 5G. Parliamo di telefonia mobile, quindi l'evoluzione del 4G. È stato spostato alle 12 giugno il termine per presentare domande di partecipazione alla sperimentazione del 5G in Italia. Questa è una cosa che riguarda gli operatori, ma visto che poi a cascata riguarderà anche i cittadini, almeno delle città di Milano, Prato, L'Aquila, Bari e Matera, è una notizia interessante e importante. Allora, a luglio verranno selezionati i progetti che dovranno partire entro la fine dell'anno e si concluderanno nel 2020. Stiamo parlando di progetti sperimentali che dovrebbero far conoscere anche il 5G ai consumatori, e stiamo parlando di una fase di avvicinamento al 2020, perché a partire dal 2020-2021 o massimo 2022 dovrebbero partire i primi servizi 5G anche in Italia. I primi servizi partiranno in Giappone durante le Olimpiadi del 2020. Pensate che i giapponesi prevedono di portare un gigabit, di garantire un gigabit ad ogni spettatore, ad ogni persona che andrà a vedere le Olimpiadi giapponesi del 2020. Parliamo di Microsoft, ci sono un paio di notizie che riguardano Microsoft questa settimana. Allora, la prima è un annuncio, ha annunciato il nuovo Windows 10S, una versione più semplice e sicura. Diciamo che la S sta per semplice, sicura e altre caratteristiche, pensata prima di tutto per le scuole, e anche la S sta per scuole, school. Per le scuole è gratuito, include anche il pacchetto Office gratuito. Una delle principali differenze con Windows classico è che le applicazioni sono scaricabili solo dallo Windows Store, che è il negozio online di Microsoft, dove i programmi ovviamente sono sottoposti ad un controllo di sicurezza, quindi non si possono ovviamente caricare, installare programmi normali che si trovano ovunque, ma solo dal Windows Store. Sempre questa settimana Microsoft ha presentato altri sistemi per le scuole. Uno in particolare si chiama Teams, che è uno strumento di collaborazione pensato per gli studenti. Non c'è ancora una data per la disponibilità di Windows 10S, ma secondo quanto ci dicono in Microsoft, la disponibilità è a giorni, quindi dovrebbe essere annunciato a breve. Allora, l'altra notizia, l'altro annuncio fatto da Microsoft è il nuovo PC portatile Surface con Windows 10S, che quindi è una novità sia per i computer in generale, ma anche per il mondo dei portatili. Diciamo che questo nuovo Surface si ispira ai MacBook, poi per alcuni questa affermazione potrebbe essere un'affermazione piuttosto grave, molto offensiva, però diciamo che cercano sia dal punto di vista del design sia per l'accoppiata hardware-software di ispirarsi agli ottimi e leggendari portatili di Apple. È sicuramente un portatile di fascia alta con tutte le caratteristiche che oggi si chiedono ad un prodotto di questo genere, disponibile dal 15 giugno anche in Italia, quindi quando sarà disponibile poi avremo modo di fare queste affermazioni con cognizione di causa, ed è già ordinabile sui siti di Microsoft. Parliamo di Apple, che ha iniziato a sperimentare il proprio sistema di guida autonoma. Le prime automobili Lexus, ma con software e tecnologia Apple, sono già state avvistate in California, sulle famose strade della California. Una notizia e un numero che ci racconta un po' qual è l'andazzo nel mondo della tecnologia e soprattutto nel mondo della pubblicità digitale. Allora, secondo una ricerca dell'agenzia Zenith, nel 2016 Google e Facebook hanno raccolto complessivamente il 20% del budget pubblicitario mondiale. Quindi un quinto dei soldi spesi in pubblicità sono andati a Google e Facebook. Un'ultima notizia riguarda Google, che ha subito un attacco informatico che sfruttava Google Docs, quindi la suite da ufficio di Google online, in cloud, e avrebbe colpito 1 milione di persone. Allora, secondo Google è stato colpito appena lo 0,1% degli utenti Gmail, ma visto che gli utenti Gmail sono 1 miliardo, lo 0,1% sono 1 milione. Allora, che cosa succedeva? La mail pensata per fare abboccare le potenziali vittime conteneva un link. Attraverso questo link si chiedeva di autorizzare un'app per accedere ai propri documenti. Quindi gli hacker sfruttavano questa autorizzazione che uno concedeva per accedere ai documenti. Cosa che diciamo sempre, lo abbiamo detto anche recentemente, 2024, oramai un link può essere considerato come un'arma, quindi attenzione a cliccare su un link che arriva da un indirizzo sospetto oppure che sia all'interno di una email un po' sospetta. Fate sempre molta attenzione. Tra poco parleremo di sanità digitale, di innovazione digitale all'interno del sistema sanitario. Ovviamente è un processo molto lungo, molto complesso, qualcosa si muove e soprattutto alcune strutture sanitarie sono già da anni stanno investendo e sono abbastanza evolute da questo punto di vista, ma bisogna fare molto di più per trascinare in avanti tutto il sistema, per portare beneficio a tutti i cittadini, risparmiare soldi e rendere più efficiente tutta la macchina della sanità. Adesso invece parliamo di Facebook. È con noi Luca Colombo, che è il country manager di Facebook in Italia. Benvenuto, meglio, bentornato a 2024. Grazie. Ti chiedo subito di dare qualche numero, perché i numeri sono importanti per dare un'idea delle dimensioni di Facebook in Italia. Quante sono le persone che si connettono ogni mese, ogni settimana, ogni anno? Allora, ogni mese il dato che è interessante guardare è sempre quello, diciamo, mensile e giornaliero. Oggi in Italia utilizzano Facebook, vuoi da mobile, vuoi da desktop, a circa 29 milioni di italiani, che sono una buona fetta della popolazione oggi online, e di questi circa 24 nel giorno. L'aspetto importante, anche un po' correlato a quello che è stato annunciato qualche giorno fa con la trimestrale, è quanti sono gli utenti poi che utilizzano soltanto il mobile questo strumento, questo servizio. Ossia, dei 29 milioni ce ne sono ormai 27 che lo utilizzano mobile, di 24 22, quindi ormai la stragrande maggioranza delle persone accede a Facebook, vuoi ogni giorno oppure ogni mese, prevalentemente da o smartphone o tablet, sapendo che poi gli smartphone hanno la gran parte dell'utenza mobile, sì, oggi in, sì, Italia. Sì. Questa è una cosa che non tutti hanno capito. Molti dei vostri investitori forse non comprendono che è incredibile. Anni e anni di dati che dimostrano che il mobile cresce, e ancora c'è una percezione... Devo dire che ci sta, nel senso che abbiamo un po' ipotizzato l'arrivo del mobile per tanti anni. 10 anni fa si diceva ogni anno questo è l'anno del mobile, questo è l'anno del mobile. Poi tutto un tratto l'accelerazione è stata proprio nel giro di 12-18 mesi, quindi è chiaro che se guardiamo a chi poi può utilizzare questa come un'opportunità, un punto di vista di business, sono le aziende. È chiaro che le aziende magari tendono a guardare molto al passato, essere un po' più orientate a quelle che sono le esperienze passate rispetto a quello che è la novità, quindi ci vuole un po' di tempo prima che ci sia l'adozione. Però se guardiamo, appunto, facendo riferimento alla trimestrale che citavo prima, oramai del nostro fatturato l'85% dell'advertising che viene speso su Facebook è fatto su dispositivi mobili, che siano poi grandi aziende o che siano piccole o medie aziende, da ristoratori piuttosto che piccoli negozi. L'85% è un numero sicuramente rilevante. Sì. Pochi giorni fa il vostro fondatore Zuckerberg ha scritto su Facebook, che è avvantaggiato da questo punto di vista, un messaggio dicendo: abbiamo un problema, ma la cosa era già stata espressa in un'altra occasione, che è quello del maggior controllo, della maggiore attenzione sui contenuti che vengono pubblicati. È anche vero, va detto, che alcune delle notizie più recenti che sono state commentate, cioè fatti abbastanza efferati pubblicati sulla rete, sono casi abbastanza limitati, però è vero che c'è una coda di fatti che è bene che non siano su Facebook, e voi cercate il più possibile di rimuovere questi contenuti, che non sono sempre video, sono anche cose scritte o fotografie. È stata annunciata l'assunzione di 3.000 nuove persone a partire dal prossimo anno. Oggi ci sono, cose che io non sapevo fino a qualche giorno fa, 4.500 persone nel mondo che si occupano della rimozione, o meglio del controllo dei contenuti e poi eventualmente della rimozione. Ci spieghi un po' come funziona questo meccanismo, perché uno può pensare che sia tutto automatico, invece no. Spesso passa un po' questo come concetto, però uno degli elementi che si trascura è come Facebook oggi cerca di mantenere un ambiente più pulito e sicuro possibile, perché questo poi porta all'adozione dello strumento. Cioè, quello che oggi pochi comprendono è quanto sia l'interesse di Facebook far sì che le persone siano all'interno di un contenitore, di un contesto, di un ambiente che permetta loro di esprimersi e di accedere a contenuti che siano effettivamente di valore. Per fare questo, appunto, 4.500 persone già oggi lavorano, e lavorano nella revisione ed eventualmente rimozione dei contenuti, non solo soltanto per rimuovere i contenuti, che superano, tra virgolette, tutta una serie di passaggi che sono automatizzati, perché comunque noi riceviamo milioni, vengono gestite milioni di richieste, milioni di quelle che definiamo report, quindi segnalazioni ogni settimana. Gestire milioni di segnalazioni ogni settimana non è una sfida che puoi gestire attraverso le persone. Non puoi assumere milioni di persone per poter gestire tutto questo tipo di richieste, sapendo che è un numero crescente. Cioè, questo sono segnalazioni di utenti. Utente, noi vedo qualcosa che non, secondo me non da va bene. Un contenuto non appropriato, a una pagina che non rispetta gli standard, piuttosto che un video che a mio giudizio non è in linea con il mio sentire, chiaramente ciascuna ha la possibilità, dall'advertising a qualsiasi forma di contenuto, di mandare la pubblicità. Posso segnalare la pubblicità non appropriata? Può essere totalmente segnalata. In questo senso c'è, quindi, il primo elemento sul quale noi facciamo leva è la reportistica, quindi la segnalazione da parte degli utenti. Difficile in maniera proattiva andare a guardare o osservare se c'è qualche cosa che non risponde agli standard in maniera automatica. Quindi fondamentale l'aspetto della reportistica, sulla quale noi appunto basiamo il lavoro di tutte queste persone. Il secondo aspetto è l'automatizzazione, fare in modo che non debbano essere queste persone a gestire tutto quanto, quando magari ci sono delle attività di gestione del contenuto che possono essere automatizzate. Facciamo l'esempio di immagini pornografiche, quindi legate al mondo adulta. Chiaro, alcune di queste le posso anche gestire in maniera automatizzata, sapendo che poi dopo si cade in alcune casistiche non facili, perché distinguere perfettamente un nudo non appropriato da un nudo artistico, ecco, il software è arrivato fino a un certo punto, poi occorre l'intervento umano possa sopperire eventuali carenze. Anche nelle cose scritte ci sono alcune cose dare il contesto è fondamentale. Poi un domani magari l'intelligenza artificiale ci aiuterà, ma ad oggi non siamo ancora a quel livello. Però l'automatizzazione, che magari su questi temi, che con questo esempio magari è semplice, però per noi è fondamentale in alcuni momenti, quando che permettono per esempio di evitare di ritornare sullo stesso problema. Faccio un esempio: quando un intervento umano permette di identificare un'immagine che il software non ha magari riconosciuto come non adeguato, quella persona poi segnala quel contenuto, immagine o video, come non appropriato. Tutte le volte che quell'immagine dovesse poi di nuovo essere ricaricata, automaticamente la piattaforma impedisce il caricamento. Quindi l'automatizzazione permette di risparmiare poi eventualmente in momenti successivi di doverci ritornare sopra. Certo. Ed è chiaro che automatizzazione e reportistica sono due aspetti fondamentali, ma ci sono tantissime zone di grigio. Se non dai un contesto, se non cerchi di guardare quello che è il diciamo, contenuto che ti si viene a segnalare, certo, l'ironia, magari l'ironia. Uno scrive una cosa in modo ironico e anche lì è facile, difficile capirlo, non è esatto cosa. Soprattutto anche quando consideri che la piattaforma è sempre in evoluzione, cioè noi oggi abbiamo delle policy che permettono e guidano un po' l'azione di queste persone nell'identificare ciò che va bene e quello che non va bene, ma a volte incontriamo delle casistiche che non abbiamo ancora vissuto. E in questo senso le persone devono decidere cosa faccio. Le scale di grigio sono tante, certo. E quindi intervengono soprattutto in queste situazioni nelle tempistiche più veloci possibili. E laddove incontriamo una nuova situazione, mi viene in mente il caso per esempio della bambina della fotografia che è stata segnalata nei Nordics, era stata rimossa, poi l'abbiamo rimessa diciamo live, riconoscendo che effettivamente aveva un suo valore. Le policy altrettanto sono state modificate, perché appunto non avevamo vissuto ancora un tipo di situazione, quindi il vissuto ci permette poi dopo di imparare e migliorare. È chiaro che le persone, quelle 4.500 persone più le 3.000 che andremo a coinvolgere, serviranno proprio a gestire meglio questo tipo di contesti che, ripeto, in una piattaforma che è in costante crescita, siamo quasi 2 miliardi di persone nel mondo, riceve sempre più segnalazioni, quindi richiede sempre più attenzione. Certo. Quel caso a cui tu facevi riferimento era una foto famosa, storica, di un reporter in Vietnam, quindi una bambina che fuggiva dalla guerra nuda, e il software l'ha riconosciuto come una bambina nuda, quindi automaticamente doppio cartellino rosso, cioè sia una bambina in più nudo, quindi insomma cosa, però dopo è stata rimessa. Certo, capisco che, ecco, il problema dei video live, quindi i video, perché oggi lo ricordiamo, su Facebook è possibile con uno smartphone fare una ripresa e mandarla in onda, in diretta, facendola vedere, possiamo decidere, cioè a tutti, cioè aprire a tutti, oppure solo ai nostri amici, alle persone che sono connesse a noi. Questo crea tutta una serie di problemi. Primo, l'imprevedibilità, perché tu non puoi sapere quello che io sto facendo quando faccio un video live. Secondo, ha anche un problema, immagino, di diritti, perché io potrei essere, che è successo già, giusto? Potrei essere ad un concerto e mando in onda, al di là poi io non capisco perché uno guardi un concerto ripreso da uno con lo smartphone, che non è di una qualità abbastanza, però... insomma, questo mi sta creando una serie una di sfide. Di... Sono delle sfide non banali, perché se parliamo di protezione della proprietà intellettuale, che va da video ma anche altre forme, pensiamo alla forma scritta piuttosto che immagini statiche, noi su questo siamo sempre stati molto attenti. In situazioni, definiamole così, statiche, quindi testo e immagini, questo bene o male riusciamo a gestirlo abbastanza bene. Oggi una segnalazione, secondo tutta una serie di percorsi simili a quelli che citavamo prima, ci permette di rimuovere un contenuto che riconosciamo essere effettivamente accreditabile ad una terza parte in forma molto, molto rapida. La sfida è quando con uno smartphone ti metti davanti al televisore e riprendi magari una diretta televisiva, piuttosto che vai a un concerto e riprendi un concerto. Oppure sei proprio allo stadio. Oppure sei proprio allo stadio. Quindi queste situazioni come le gestisci? Ecco, è una sfida non trascurabile, perché innanzitutto di tutti i video che noi oggi abbiamo su Facebook, 1 su 5 sono live. Quindi sono video live, quindi è un numero non più trascurabile, e soprattutto nell'ultimo anno è cresciuto di 4 volte, quindi è 4 volte quello che era il numero dell'anno passato, e quindi c'è una crescita molto veloce proprio perché è una delle forme di comunicazione più efficace, quindi le persone interagiscono maggiormente. Ed è chiaro che così facendo si risponde a quel concetto di rilevanza che diciamo, guida un po' a quello che è il contenuto interessante rispetto a quello che è meno interessante. Rispetto a questo ci sono diversi sforzi in campo, è chiaro che è un percorso in divenire, però faccio un esempio legato al caso della diretta televisiva. Oggi con diversi broadcaster, quindi produttori televisivi e comunque reti TV, se loro danno il segnale, danno quello che si definisce appunto il segnale video nativo a Facebook, noi siamo in grado di riconoscere se eventualmente sulla piattaforma si trova una forma di video paragonabile a quella, laddove viene intercettata viene rimosso nel giro di qualche, diciamo, 20 secondi se non ricordo male, okay? Quindi ad esempio, quindi, uno che vuol far vedere la partita di calcio non ci riesce teoricamente, no, se noi riceviamo questo tipo di input oggi la tecnologia ci permette di rimuoverlo. Chiaro è che invece se vai allo stadio e riprendi la partita col cellulare, quella è un'altra sfida, piuttosto che lì è difficile riuscire ad oggi non c'è ancora, diciamo, una risposta completa e perfetta in quella è una sfida delle macchine, perché anche voi investite un sacco di soldi in intelligenza artificiale, che ancora oggi non è mica tanto intelligente, cioè va detto, va un po' smontati certi miti. Sono d'accordo, tant'è che spesso ne parliamo di intelligenza artificiale piuttosto che virtual e augmented reality, piuttosto che, vabbè, l'altro tema è la connettività, come progetti a 10 anni, sì. Comunque cerchiamo di posizionare correttamente nel tempo questo tipo di tecnologie, perché oggi è di modo parlarne, si creano aspettative e poi quando uno vede l'applicazione pratica, che è ancora un po' minima, non trova un buon riscontro, e quindi c'è magari eventuale disaffezione rispetto a questo. Noi diciamo che sono cose a 10 anni, penso che qualche cosa si possa fare nell'ambito dei video. Già oggi vediamo che con intelligenza artificiale si possono riconoscere contenuti all'interno dei video. Portiamo spesso degli esempi di immagini di diversi sport, quindi video che raccontano momenti di diversi sport, e macchine di intelligenza artificiale sono in grado di dirti che tipo di sport c'è in quel momento. Certo, il calcio è abbastanza semplice, c'è molto verde. Questo esempio veniva riconosciuto di 487 tipologie di sport, tanti sport che nemmeno noi conoscevamo, però detto ciò c'è spazio per fare in modo che una macchina riconosca un contenuto dinamico, quindi un domani provare magari a capire come quelle problematiche citate prima di live streaming, ma non collegate a una trasmissione, ma di presenza fisica all'interno dell'evento, possono essere bloccate laddove non sono effettivamente in linea con il tema dei copyright. È una sfida. Penso che l'intelligenza artificiale possa essere una risposta, però ancora una volta non per domani, che starà in divenire. A proposito di cose non per domani, ma che potrebbero, che sono legate a questo a cui abbiamo accennato, cioè la distribuzione dei contenuti. Se voi avete 29-30 milioni di italiani e quasi 2 miliardi di persone nel mondo che si collegano e sono iscritte, quindi entrano in Facebook, se voi diventaste distributore di contenuti, avreste già un pubblico pronto, già tra virgolette abbonato, perché è tutto gratis, ma è una idea che poteste fare? Oggi Facebook è già una piattaforma all'interno della quale vengono poi distribuiti dei contenuti. Di altri, certo, sì. Oggi già, se pensiamo a quotidiani piuttosto che appunto a trasmissioni televisive, vengono riportate all'interno di Facebook sfruttandone quello che è la distribuzione, che poi possa essere promossa attraverso advertising o ci sia una distribuzione organica, è scelta, diciamo, dell'editore. Instant Articles, per esempio, che è quella forma di posizionamento di un articolo all'interno di Facebook che permette all'editore poi di trarre il vantaggio dalla distribuzione mediante monetizzazione o totalmente autonoma attraverso Facebook, è un esempio che proprio mostra come la distribuzione di contenuto possa vedere in piattaforme come Facebook. Questo è il caso di io, produttore di contenuti o distributore di contenuti, sfrutto e utilizzo Facebook per distribuirli ancora di più. Però potreste diventare proprio voi dopodiché, concorrenza a Netflix. Dopodiché il tema è Instant Articles è un esempio che mostra come la qualità del contenuto per noi è importante, quindi fare in modo che ci sia una perfetta distribuzione, ma altrettanto del contenuto che sia rispondente a tutta una serie di parametri è un elemento centrale per far sì che l'ambiente Facebook sia di valore. In questo senso l'attenzione quindi verso contenuti che non sono soltanto degli utenti, ma anche contenuti professionali è piuttosto accentuata e piuttosto forte. Ci sono contenuti, per esempio, negli Stati Uniti sui quali abbiamo dimostrato interesse, vedi per esempio l'NFL. Avete partecipato alla gara. Abbiamo comunque in generale l'attenzione verso questa tematica. Ad oggi dire dove andremo, difficile. Certamente oggi abbiamo una piattaforma che permette di raggiungere tante persone e quindi potenzialmente distribuire del contenuto. L'attenzione da parte nostra è quella di avere un buon contenuto, qualità di contenuto. Dire qual è il giusto contenuto, difficile, Però certamente come ci si sta muovendo molto velocemente sul mobile che sta esplodendo, è chiaro che l'attenzione verso come distribuire, quali sono le nuove forme di distribuzione è sì. un qualche cosa sì. che sta un po' al centro della nostra attenzione, appunto. Ricordiamo che non so se il 100%, ma quasi il 100% dei ricavi sono pubblicitari, giusto? Beh, dall'ultima trimestrale di qualche giorno fa, 8 miliardi è stato il fatturato dell'ultimo trimestre, 7.9 da advertising. E gli altri? Sono che una volta c'erano i giochi. Sostanzialmente sì. sono quelli che vengono definiti payments, ossia, prendiamo l'esempio dei giochi appunto che hai citato, persone utilizzano Facebook per giocare, mi viene in mente sempre Candy Crush, sì. All'interno di Candy Crush ci sono delle funzionalità definite premium, quindi le persone sono disponibili, sì. sono disposte a pagare qualche centesimo, qualche euro, una parte di quel pagamento va a Facebook, una bella fetta invece va giustamente al produttore di giochi. Bene, solo 100 milioni avete preso. 100 sì, milioni circa è la revenue che rimane. Briciole diciamo... a confronto del fatturato che è pubblicitario. A proposito di pubblicità, voi fate la pubblicità e siete uno degli esempi maggiori sulla rete di quanto la raccolta dei dati degli utenti permette di fare pubblicità targetizzata. Mm-hmm. Che è il contrario di quello che fanno i vecchi media, cioè io pubblico una pubblicità e non so, oddio, qualcosa so, però non so precisamente a chi va, da chi viene vista, da chi viene ascoltata, eccetera. Ecco, nel vostro caso invece, fino a che punto si riesce a essere granulari, cioè scegliere, io voglio una persona giovane che abiti in una città, che viaggi, che ne so, che sia bionda, non so se fino a quel punto. Ma allora, in generale, il paradigma che ha cercato sempre un po' di regolamentare è quello che è la comunicazione e il marketing, ossia raggiungere le persone giuste al momento giusto, che con modelli, diciamo, tradizionali vedeva: ho un contenitore di contenuto, quel contenitore normalmente viene visto da queste persone, si arrivava verso quel contenitore cercando di avere individuare un'affinità di target. Quindi il concetto di affinità era quello che è sempre un po' seguito l'esempio che tu citavi prima. Oggi abbiamo la possibilità di raggiungere esattamente, perfettamente quelle persone. Dico esattamente, perfettamente per quelle che possono essere le variabili a disposizione rispetto al target ideale identificato da un'azienda. Però fino a che punto? Il punto è legato a quelle che sono le informazioni disponibili, quindi non abbiamo di una persona, non si ha di una persona tutto, si cerca a volte anche di dedurre qualcosa sulla base di correlazione di dati. Faccio un esempio: io sono registrato su Facebook come genitore di un bambino che è nato nel 2010, una bambina che è nata nel 2006. È chiaro che sono un papà di una bambina di 10 anni, ok? Sono un papà di un bambino di 6 anni. È chiaro quindi che sei una persona con certe caratteristiche di targetizzazione, anche se non mi sono dichiarato in questo senso. Però certo. prendere quelle informazioni e da qua dedurre qualcosa di utile da un punto di vista di business, non vai a ledere la privacy di nessuno, perché comunque non fornisci mai il dato personale e specifico di qualcuno, ma crei una variabile di targetizzazione certamente importante per chi produce giochi, piuttosto che pannolini, piuttosto che altro genere, diciamo, di prodotti che possono essere interessanti per un papà di bambini tra i 6 e i 10 anni. Quindi certo. in questo senso, dove può andare la targetizzazione parte sempre dal dato disponibile, che non è infinito, ma poi da lì cercare di, mediante correlazioni, intersezioni, diciamo, di variabili, estrarre un'informazione sempre più a valore per le aziende. In questo senso, ripeto, non è un andare a entrare nella privacy delle persone, quello deve essere sempre è un tema per noi fondamentale. La privacy è sempre il primo elemento sul quale poniamo attenzione e rispetto, ma da lì poter costruire del valore per poter creare un vantaggio sì, per sì. le aziende, sul quale appunto creare business è per noi fondamentale. Sì, il tema della privacy è anche legato alla consapevolezza delle persone, che molto spesso fanno cose che non sanno, di cui non si rendono conto, però quello è un problema, non è un problema vostro, comunque è relativamente poco vostro. È un problema nostro, tant'è che comunque in questo senso, quando rilasciamo delle nuove funzionalità che permettono alle persone di gestire meglio il proprio dato, oggi le persone a volte entrano su social, Facebook, in maniera, non dico inconsapevole, ma non con la piena consapevolezza di quelle che sono le opportunità, entrano e rendono tutto quanto pubblico. Dito già su accetta, cioè okay, accettano tutto. Ma l'accetta è, l'accetta è terms and condition, però quando tu pubblichi del contenuto, fare attenzione se lo stai pubblicando in maniera... diciamo pubblica, quindi che va a tutti, oppure ai tuoi amici, oppure soltanto ad alcune persone, è il primo passaggio che noi sottolineiamo come importante per gestire bene. Io per esempio ho contenuto che non è pubblico, ho un contenuto che va soltanto ai miei amici e faccio attenzione a scegliere bene i miei amici. Certo. E a quel punto quindi quello che io vado a pubblicare lo faccio in totale tranquillità. Oggi l'insegnamento e l'educazione dei consumatori in questo senso per noi è fondamentale per fare in modo che non incontrino delle situazioni spiacevoli e che poi portano queste persone ad allontanarsi, perché di fronte a una situazione non positiva le persone poi non rimangono, se vogliamo, affezionate a quel servizio. Quindi per noi è fondamentale fare in modo che ci sia educazione, facendo scoprire quelle che sono le funzionalità disponibili. I tuoi figli usano Facebook? No, non hanno 13 anni. Ah, quindi impossibile. Ti faccio questa domanda quando compieranno 13 anni. No, ci rivediamo. No, ci rivediamo prima, speriamo. Speriamo. Bene, grazie di essere venuto nei nostri studi. A presto. Grazie a voi. Riprendiamo questa puntata di 2024, vi ricordo che tutte le interviste che ascoltate durante il nostro programma le trovate in versione integrale nell'edizione podcast di 2024. Potete riascoltare il nostro programma attraverso il nostro sito internet www.radio24.it, attraverso la nostra app per smartphone sia iOS che Android, oppure attraverso una delle tante applicazioni per la gestione del podcast. Ci sono delle fantastiche app con le quali, cercando 2024, vi abbonate al podcast, lo ascoltate in streaming oppure lo potete scaricare sul vostro smartphone. Insomma, l'importante è riascoltare i nostri programmi. Questo vale per tutti i programmi di Radio 24, a maggior ragione per 2024, dove trovate tutte le nostre interviste in versione integrale. Adesso parliamo di sanità digitale, di quanto fa bene in generale, ma soprattutto nel sistema sanitario la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica e gli investimenti verso questa direzione portano benefici in termini di efficienza, del risparmio di soldi, poi parlando di sanità, di salute, anche maggior precisione e riduzione degli errori, insomma sono tantissimi i vantaggi. Ne parliamo con Mariano Corso, il professor Mariano Corso, che è il responsabile scientifico dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano, che questa settimana ha presentato il rapporto sulla sanità digitale aggiornato. Bentornato a 2024. Grazie e ben ritrovati. Ci sono alcuni dati che da un certo punto di vista potrebbero essere preoccupanti, perché se parliamo di innovazione digitale, non tutto quello che sta accadendo con il ritmo che ci aspettavamo, che ci si dovrebbe aspettare, giusto? E proprio così, c'è una sorta di schizofrenia tra un sistema che ha capito la direzione verso cui andare, quindi una grande consapevolezza di una necessità di andare in una direzione che è ormai chiara. Anche dal punto di vista, possiamo dire, normativo, di produzione normativa, esistono delle indicazioni chiare, però poi quando si va a guardare all'implementazione, alle iniziative che sono state lanciate e soprattutto agli investimenti che vengono fatti per portare in rete la sanità, il sistema sanitario, si vede che siamo indiscutibilmente in ritardo, quindi che a fronte del patto per la sanità digitale, a fronte degli auspici e delle indicazioni che sono state date anche dal governo, in realtà quest'anno la spesa per il digitale nel sistema sanitario italiano è addirittura diminuita. C'è stata non solo una stagnazione, ma addirittura una riduzione del 5%. Questo vuol dire che noi stiamo spendendo per modernizzare il nostro sistema molto, la metà o a volte un terzo di quelli che sono gli altri paesi, sì, pur avendo identificato questo come una priorità. Tra l'altro, se uno guarda al totale del denaro speso per la sanità, il denaro speso per la digitalizzazione, per l'innovazione digitale è veramente poco. Sì, sì, ma... Cioè, 1.270 milioni. Assolutamente sì, vuol dire circa l'1,2% della spesa sanitaria. Allora, facendo un parallelo con proprio il mix di spesa digitale rispetto al totale, un'azienda sana, un'azienda che oltretutto operasse in un sistema che è intenso dal punto di vista dell'informazione, come quello della sanità, non può avere nel mix di spesa l'1,2% dedicato alla spesa sul digitale. E poi ovviamente qui c'è una parte che è pura gestione e non è investimento. Certo. Quindi siamo molto in ritardo. Sì. Mi dai una, due, tre, decidi tu quante ragioni per investire in tecnologia nel settore sanitario? Molte di queste ragioni valgono per qualsiasi settore, ma forse alcune di queste a maggior ragione per il settore sanitario. Certamente. Beh, la ragione fondamentale è la sopravvivenza, cioè la sostenibilità a fronte di un cambiamento della domanda. Noi stiamo andando incontro a un fortissimo incremento della domanda di cura, e questo è legato all'invecchiamento demografico e quindi anche all'aumento di incidenza della cronicità. Fenomeni che sono stati ben riconosciuti, misurati, stimati e che richiedono il fatto di portare i servizi il più vicino possibile al cittadino per evitare di ricorrere poi agli ospedali, alle malattie, all'acutizzazione. Invece noi dobbiamo metterci in condizioni di curare il paziente, il cittadino anzi, dov'è. Quindi dandogli servizi semplici e anche, questo è un cambiamento importante, trasferendo su di lui informazioni, servizi, anche è proprio un processo di empowerment, no? Il cittadino si deve in parte poter curare da solo, migliorare i propri stili di vita, fare prevenzione, questo è l'investimento più semplice ed è l'unico modello che è sostenibile se guardiamo a quello che sarà l'impatto della crescita della domanda a fronte di una limitazione nelle risorse che saranno disponibili per il sistema sanitario. Quindi il sistema sanitario del futuro o sarà ampiamente digitale, altro che l'1,2% della spesa, o non sarà in grado di sostenere la domanda. Sì, anche in questo settore la digitalizzazione porta a una maggiore efficienza, oltre che efficacia. Assolutamente, è proprio una questione, come dicevo, di efficienza, ma direi di sostenibilità, perché la tecnologia, evidentemente, se messa nel modello, se usata per ripensare il modo in cui si erogano le attività, ti consente di fare cose in modo molto più intelligente. Sì. Possiamo fare alcuni esempi di che cosa intendete per digitalizzazione, per innovazione digitale? Perché ci sono vari aspetti, vari livelli, anche vari gradi di complessità. E immagino che la prenotazione della visita attraverso il computer, attraverso internet, sia, come dire, l'ABC, la cosa più semplice e più facile, cioè tutta la parte cosiddetta di front office. Quindi io che mi rivolgo alla struttura ospedaliera, immagino che quello, non dico che la dobbiamo dare per scontata perché purtroppo non è così ovunque, però è una cosa che è semplice da comprendere. Stiamo parlando di qualcosa di più complesso che entra veramente nella macchina della sanità. Assolutamente vero, però non bisogna trascurare le cose semplici. Cioè oggi grandi risparmi si possono fare proprio sull'applicazione delle cose semplici. Cioè quando tu dicevi la prenotazione la diamo per scontata, in realtà avere un sistema di prenotazione digitale e unificato a livello di una regione o di un'azienda sanitaria, ma il più possibile in modo aggregato. Sì, perché ricordiamo che la sanità viene regionale. Vuol dire un cambiamento organizzativo fortissimo, vuol dire andare a mettere insieme le agende dei medici, dei laboratori, quindi al di là della tecnologia di interfaccia che noi oggi può sembrare estremamente facile, vuol dire che c'è stata dentro un ripensamento dei processi e un miglioramento organizzativo. Ma altro elemento che può sembrare banale per chi vive il digitale nella vita privata ogni giorno è il ritiro dei referti online, ma costa tantissimo non solo alle aziende, ma anche ai cittadini il fatto di dover ritirare, andare magari recarsi presso una struttura a ritirare i referti. E questo vuol dire anche che il referto, poi il cittadino stesso deve fare da integratore dell'informazione tra i diversi medici, che invece dovrebbero avere tutte le informazioni a disposizione. Questa, ad esempio, è l'essenza dell'investimento sul fascicolo sanitario elettronico, cioè se tutti i dati del paziente, tutti i servizi che ruotano attorno al cittadino possono essere resi disponibili in rete, la collaborazione tra diversi medici, diversi anche operatori e caregivers, operatori della salute e il cittadino stesso diventa molto più semplice, molto più lineare. Ripeto, sono cose che concettualmente oggi ci appaiono semplici. Il cittadino infatti le chiede, le vuole, le aspetta, sarebbe perfettamente in grado di utilizzarle, ma siccome sono sviluppate con ritardo, rese difficili da utilizzare, non complete, alla fine il cittadino si ritrova un pochino smarrito, no? A dover ricorrere. Se io cittadino sono pronto per utilizzare una cosa, ma tu mi dai o non me la dai, oppure mi dai una soluzione, un servizio che funziona male, io vado allo sportello come facevo una volta. Certo. Anche perché il pericolo è quello di digitalizzare i processi così come sono, invece semplificarli, certo, semplificarli certo. È un'altra cosa, vuol dire che quando io ti do, se io sono il sistema sanitario, tu hai fatto un esame presso una struttura, ti do direttamente il referto, te lo do ovunque tu sia, a casa, sul tuo smartphone. E a quel punto, se c'è bisogno di una visita di controllo rispetto al referto, io direttamente ti propongo con un click il fatto di prendere un appuntamento, perché io so quali sono le strutture, so quali sono le strutture vicino a te e io ti propongo il giusto appuntamento. E questo è una semplificazione di processo ed è una semplificazione anche della vita del cittadino, ma anche poi dell'interazione che avviene all'interno del sistema sanitario, che porta vantaggi a tutti. E quindi il cittadino questa cosa oggi la vuole. C'è chi la sta facendo, perché adesso noi, da quello che stiamo dicendo, sembra che nessuno stia facendo nulla. Invece no. E questo è quello che fa più rabbia, cioè è una delle patologie del nostro sistema. Cioè, abbiamo detto, da una parte c'è un sistema sanitario nazionale che ha ben identificato quelle che sono le sfide e le direzioni verso cui andare. Dall'altra ci sono poi concretamente dei territori e delle singole strutture che dimostrano che si può fare, che i vantaggi sono enormi. Quello che non si riesce a fare è mettere a sistema questo, che al cittadino sembra buon senso, per riuscire a dare un vantaggio a tutti i cittadini indipendentemente. Oggi non è possibile che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B a seconda della regione in cui uno abita. Sì, o dell'area dove vive. Sì, certo. E questo, fammi dire, è una profonda iniquità e, tra l'altro, attenzione, ha poi degli effetti di attrattività territoriale. Cioè, se a livello di nazione e poi a livello di singole regioni non si crea una giusta piattaforma di servizi, io rendo il territorio più povero, meno accogliente, e quindi anche dal punto di vista economico è un gravissimo errore. Sì. E a proposito di quello che abbiamo appena detto, ci sono in tutta Italia, sia a nord che a sud, ci sono esperienze, progetti, strutture sanitarie, intere aziende sanitarie e anche regioni che fanno meglio di altre. Voi all'interno dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità avete premiato alcune esperienze, ne abbiamo scelta una, poi magari nelle prossime settimane, nei prossimi mesi racconteremo altre esperienze interessanti per capire che cosa significa poi innovare, utilizzare la tecnologia per migliorare, rendere più efficiente il sistema. Adesso parliamo di quello che è stato fatto all'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo. L'ISMET di Palermo è un istituto piuttosto noto. ed è stata utilizzata la tecnologia per rendere più efficiente il lavoro degli infermieri. Giuseppe Arena è il direttore dell'attività infermieristica all'ISMET di Palermo. Misurare il carico di lavoro infermieristico è un fattore importante in tutte le strutture sanitarie e questo naturalmente può influenzare positivamente o negativamente gli outcomes dei pazienti. Pertanto, diciamo, un numero adeguato di risorse infermieristico è essenziale per garantire quella che è la qualità assistenziale, quindi delle cure, aumentando di conseguenza la sicurezza del paziente e ridurre tutti gli eventi avversi. Il nostro strumento, appunto, che è uno strumento per il calcolo del carico assistenziale, che l'abbiamo denominato Nursing Care Score, è un sistema intanto proattivo che ci aiuta ad ottimizzare quella che è la distribuzione del carico di lavoro tra il personale infermieristico e quindi oggi ci permette di pianificare meglio le risorse in un'unità, ma in realtà in tutto l'istituto, visto che dal 2015 è stato applicato in tutte le unità del nostro istituto. Come fate a realizzare tutto ciò? Con che tipo di strumenti? Cioè avete dei braccialetti, degli smartwatch, dei tablet, degli smartphone, come fate? Allora, in realtà la nostra struttura ha una cartella clinica elettronica già dal 1999, quindi il nostro personale infermieristico è abituato a utilizzare questo strumento elettronico, dal quale noi, sulla base di parametri che sono presenti appunto nella cartella clinica e stabiliti per determinare appunto lo score, sono circa 63 indicatori di assistenza infermieristica, il personale infermieristico non fa altro che documentare le note infermieristiche e da lì questo sistema che abbiamo creato tramite un nostro ingegnere ci aiuta a determinare lo score e quindi il peso di ogni singolo paziente. Questo sistema ci ha permesso di migliorare quella che è la distribuzione del personale infermieristico raggiungendo diversi risultati. Questa cartella clinica dove si trova? Su dei tablet, su dei computer fissi? Cioè, quali sono gli strumenti per raccogliere questi dati che poi voi elaborate per gestire il carico di lavoro? La cartella è su un computer fisso, ma i computer sono distribuiti per tutto l'ospedale, ogni stanza è dotata di un computer, le nurse station, quindi i luoghi dove il personale infermieristico staziona per appunto documentare, sono distribuite in tutto l'istituto. Poi sono presenti anche tablet e anche altra tecnologia che serve per l'identificazione del paziente, ma ripeto, per quel che riguarda questo strumento utilizziamo appunto dei computer fissi che sono distribuite e disponibili nell'intera struttura. Parlando di risultati, quali sono i risultati principali che avete ottenuto? Ci ha permesso di riallocare in maniera strategica le risorse che noi abbiamo in istituto. Addirittura abbiamo ridotto il numero di risorse infermieristiche perché ci siamo resi conto di che gestendole meglio riuscivamo ad avere più risorse presenti in turno e quindi riusciamo a gestire anche assenze inaspettate di personale con le risorse distribuendo appunto le risorse fra le unità. Consideri che la riallocazione interna del personale temporaneo è passato da 135 movimentazioni nel 2013 a quasi 700 nel 2016 e questo ci ha permesso di abolire totalmente il lavoro straordinario, addirittura gli ordini di servizio sono passati da 57 a solo 4 nel 2016. Gli sviluppi futuri sono sicuramente la possibilità di implementare questo strumento in qualunque altra struttura che ha in dotazione una cartella clinica elettronica. In più stiamo sviluppando un altro sistema per un'assegnazione automatica infermiere-paziente, perché oggi è il coordinatore che distribuisce il carico sulla base dei dati che riceve poco prima dell'inizio del turno. Stiamo sviluppando un sistema che aiuti il coordinatore, quindi riduca anche il tempo dedicato alla distribuzione dei pazienti in maniera automatica. E questa era la voce di Giuseppe Arena, direttore delle attività infermieristiche all'ISMET di Palermo, uno dei casi, uno dei progetti premiati all'interno dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano. Arena ha parlato della cartella sanitaria digitale. Questa è la cartella che sta all'interno di una struttura ospedaliera. Altra cosa invece è il fascicolo sanitario digitale, che è proprio l'elenco di tutto quello che ci è successo nella storia, ma un po' di più, non è solo questo. Infatti vorrei chiedere al professor Corso, che è responsabile scientifico dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità, che è con noi in questa puntata di 2024, se tutti i cittadini hanno un fascicolo sanitario, cioè tutti noi abbiamo già, magari non lo sappiamo ed è dormiente, ce l'abbiamo questo fascicolo sanitario digitale? Allora, tutti i cittadini dovrebbero avere un fascicolo sanitario elettronico, poi richiariamo brevemente magari cos'è, però tutti dovrebbero avere un punto di accesso a quelli che sono almeno dei servizi di base legati alla propria storia clinica. Questo è stato una politica, sono state degli obblighi che sono stati dati a tutte le regioni. Quasi tutte le regioni, purtroppo non tutte, hanno sviluppato un piano e quindi hanno elaborato quello che è il progetto di attivazione di questo fascicolo sanitario elettronico. In 6 regioni questo è attivo con vari livelli di capillarità rispetto all'uso da parte dei cittadini. In altre si sta sviluppando la piattaforma, con però un ritardo, perché qual è cosa succede? Che i servizi che dovrebbero essere contenuti all'interno del fascicolo sanitario elettronico, quindi il ritiro dei referti, poi ci sono alcune cose più amministrative, non so, il cambio medico, le prenotazioni, eccetera. Tutti questi servizi che dovrebbero essere in modo unificato, coerente, usabile, compresi all'interno del fascicolo sanitario elettronico, in realtà vengono, non sono presenti, non sono ben accessibili, allora vengono offerti separatamente dalle diverse strutture. Questo crea una confusione, anche un'iniquità incredibile. Quindi dobbiamo assolutamente darci e dare al sistema un senso di urgenza, perché, ripeto, ci sono tutte le premesse, le ragioni per portare in rete almeno quelli che sono i servizi di base, e questo oggi non avviene. Sì, ricordiamo che il fascicolo sanitario elettronico è il contenitore di tutte le notizie che ci riguardano a proposito di salute. Sì, è visto meglio, perché purtroppo è un po' riduttivo il concetto di contenitore. In realtà il fascicolo sanitario elettronico dobbiamo vederlo come una sorta di piattaforma di servizi in cui tutte le strutture che erogano servizi possono rivolgerle verso il cittadino. Quindi dobbiamo pensarlo come una sorta di piattaforma, una sorta di Amazon della salute in cui noi entriamo e dentro troviamo le informazioni su noi stessi, troviamo tutte le risposte a quelle che sono le nostre necessità, le informazioni circa i servizi e poi anche la possibilità di relazionarci col cittadino. Questo se visto lato cittadino. Visto lato operatori vuol dire integrare in un solo punto attorno al cittadino tutta la storia clinica, quindi anche la possibilità per un medico di avere a disposizione quello che gli serve per curare adeguatamente una persona, sapendone la storia, potendosi confrontare con gli altri specialisti. Sì, sì, invece di chiedere al paziente di portare lui gli esami, cioè, esatto, che chissà quali porta. Questo, oppure di ricordarsi le cose, c'è tutto scritto sul computer. Capite che nel 2017 questo grida vendetta. Certo. Anche perché a questo punto sulla salute ci sono alcune strutture internazionali che potrebbero sapere più cose di quelle che sa il Servizio Sanitario Nazionale. Assolutamente, questo è un altro punto importante, cioè avere a disposizione una grande mole di dati sulla singola persona, ma anche sulle persone, oggi, con il tipo di tecnologie che abbiamo a disposizione, consente di avere una ricerca clinica molto più efficace, consente di avere anche delle garanzie su quella che è l'appropriatezza delle cure che si forniscono, quindi consente anche di evitare degli sprechi. E tutte queste tecnologie oggi non sono strane, sono allo stato dell'arte, però la condizione è quella di disporre dei dati, di metterli sì. a disposizione, di renderli tra loro omogenei e interoperabili, e allora questo evidentemente va fatto urgentemente. Certo, anche perché, come dicevo prima, il rischio è che Apple e Google, che sono forse le due aziende, visto che sono presenti negli smartphone che abbiamo in mano, che ci propongono una o più applicazioni o comunque ci propongono un sistema che connette varie applicazioni proprio per la salute, per il monitoraggio della salute. Voi avete analizzato anche questo capitolo. Le persone, i cittadini, come li chiamate nelle vostre ricerche, li utilizzano questi servizi? Ma guarda, c'è una vera e propria esplosione di interesse. Esistono 300.000, sono circa 300.000 le app per il monitoraggio della salute. 100.000 sono state lanciate solo nell'ultimo anno, quindi parliamo di un mercato incredibile, lo chiamo mercato sì. apposta come provocazione, e che i cittadini guardano con grandissimo interesse da una parte, ma anche con grandissima, come dire, attenzione, e anche con un pizzico di frustrazione legato al fatto che questo grande patrimonio di servizi possibili, di informazioni, non viene erogato con il livello di qualità e affidabilità che loro richiedono. Per cui, come dire, io ad esempio posso monitorare tutta la mia attività fisica, la mia dieta, ricevo una serie di feedback, ma sono consapevole del fatto che queste sono, magari anche posso andare a monitorare tutti i miei parametri vitali, ma poi sono frustrato del fatto che non so cosa farci su questi dati, perché il sistema sanitario non mi aiuta a interpretarli, non mi aiuta ad avere la giusta guida per uno stile di vita corretto, sì, per sì. una prevenzione. Beh, però questo è lo scopo dei servizi collegati a queste app, che sono servizi di aziende private che puntano a fornirti dei consigli, dei suggerimenti. Certo, però non sono certificati, certo, non sì, sono arricchiti, cioè dovrebbe essere innanzitutto il sistema sanitario a fornirti quel tipo di servizi. E quando ci sono, abbiamo visto questa cosa fantastica, cioè il cittadino è già in rete, il cittadino attende di avere dei servizi affidabili, quando ce li ha li usa. Ed anche il medico, ecco, c'è anche un grande pregiudizio oggi rispetto a quelle che sono le competenze digitali dei medici. Non è vero che abbiamo dei medici arretrati, obsoleti, che non accettano, che hanno paura, timore del digitale. È vero il contrario, e questo quest'anno l'abbiamo rilevato con grandissima forza. Quando ai medici, agli operatori è data la possibilità di utilizzare canali e strumenti digitali, loro lo fanno con grandissimo interesse, e quando non lo fanno è perché non hanno ancora lo strumento affidabile e utile. Ma l'interesse oggi è fortissimo. Abbiamo citato più volte i dati. Siamo sicuri che poi tutto quello che stiamo generando e che il sistema sanitario genererà grazie all'innovazione tecnologica, all'innovazione digitale, producendo quindi dei dati, ecco, che tutto ciò sia protetto, sicuro? Dopodiché vale sempre il ragionamento di alcuni che dicono: ma non crediate che quello che c'è oggi, cioè i fascicoli che sono sperduti negli ospedali, siano sicuri. Però quello della sicurezza dei dati e anche della protezione dei dati, affinché non ci sia qualcuno che li riesce a prendere, li elabora e ci crea delle proprie statistiche o fa tutta una serie di inferenze, insomma, sullo stato di salute dei cittadini o di un cittadino particolare. Certo. Allora, questo è un tema molto dibattuto tra gli esperti, cioè ed è anche un forte limite, ovviamente, un forte vincolo, chiamiamolo, perché sì, limite nello sviluppo dei servizi, cioè la possibilità poi di garantire la giusta protezione dei dati personali. Noi da questo punto di vista abbiamo voluto anche sentire il cittadino e abbiamo trovato un segnale molto forte, cioè è evidente che si tratta di dati sensibili e che sono dati che hanno anche un valore economico potenziale importante. Tuttavia il cittadino è molto più preoccupato dal fatto che oggi esistano dati che non vengono utilizzati, valorizzati, piuttosto che non il timore della privacy. So di dire una cosa piuttosto, sì, piuttosto forte, ma mediamente al cittadino sarebbe disponibile a rinunciare a un epsilon di privacy o di rischio per quanto riguarda i dati della propria salute, purché questi dati servano a fare ricerca e servono a proporgli dei servizi utili. È diverso da quelli che sono magari i dati finanziari, su cui c'è un'attenzione ancora più forte punto. Del cittadino. Cioè il cittadino dice, mi interessa poco della privacy purché tu mi dia un servizio che sia utile alla mia salute. Se lo percepisco. Beh, quindi il rischio che entità private, non dico solo Google e Apple, ma le tante, cioè, dietro queste 300.000 app ci sono tante startup, società, eccetera, eccetera, ecco, facciano business magari anche utile al cittadino, ma che bypassino il sistema sanitario nazionale. E il rischio c'è, ma fammi dire, secondo me è un rischio da accettare e, come dire, gestire. Perché che un'azienda farmaceutica, avendo una grande mole di dati che possono anche essere ragionevolmente anonimizzati, possa fare ricerca farmacologica e poi ricerca clinica e quindi avere dei dati che gli consentono di sviluppare dei nuovi farmaci, fammi dire, meno male che questo avviene. È positivo. Sì. Il fatto che aziende private possano sviluppare dei sistemi di analitici, come si dicono, che permettono di migliorare la velocità con cui si fanno delle diagnosi cliniche e poi possano vendere questi strumenti alle aziende sanitarie, ma ben venga. In questo momento il cittadino dice, oggi si producono grandissime mole di dati, vorrei essere messo in condizioni di essere più padrone, più forte nell'andare a comprendere questi dati, a capirne le implicazioni per me. Il fatto che questo possa comportare un po' un rischio di mettere a disposizione dei miei dati personali, forse mi preoccupa meno. Capisci che il diritto alla privacy è un diritto importante, il diritto alla salute, rispetto alla forse percezione del cittadino, pesa tanto. Ecco, con questo non voglio dire che non occorra stare attenti alla privacy. Quelli che sono i principi fondamentali di protezione dei dati vanno incorporati nello sviluppo dei sistemi dall'inizio. Bisogna dare delle regole, ma poi i dati vanno messi a disposizione non solo del sistema sanitario nazionale, ma anche degli operatori che sono in grado di utilizzarli, ovviamente stando attenti a non ledere quelli che sono i principi di concorrenza. Bene, io ringrazio il professor Mariano Corso per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie, a presto. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Io sono Enrico Pagliarini. Avete ascoltato la versione podcast del nostro programma con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Torniamo la prossima settimana, sempre venerdì tra le 22 e le 23, domenica fra le 13.30 e le 14. Ci trovate su Twitter, su Facebook oppure scrivendo a 2024@radio24.it. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori che ci scrivono ogni settimana. Alcuni ricevono risposta, alcuni magari no, perché o fanno delle domande alle quali non so rispondere, oppure fanno delle domande troppo complicate, la risposta richiederebbe molto tempo. purtroppo non ho il tempo per fare delle dare delle risposte personalizzate, delle consulenze personalizzate, però insomma faccio il possibile. Grazie ancora e appuntamento alla prossima settimana.